Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. L'hanno chiamata Reggio libera Reggio perché solo Reggio Calabria può essere in grado di liberare Reggio Calabria. Solo la gente da sé può decidere di andare in una direzione diversa rispetto al pizzo, alle minacce, alle imposizioni dell''ndrangheta. Per questo hanno scelto questo nome per un grande movimento anti-racket che raggruppa 50 associazioni di ogni genere guidate da Libera. Un nome che potrebbe avere il suono di un tana libera tutti in una terra dove ogni rione ha la sua cosca e gli imprenditori pagano quasi tutti, ammette Tano Grasso, presidente della Federazione Antiracket Italiana. Una denuncia sconsolata che per la Calabria assume toni ancor più foschi, perché in Calabria tutto è stato cominciato in ritardo rispetto alle altre regioni a forte infiltrazione criminale. Eppure, rivela Grasso, anche l'iniziativa forte di Confindustria Sicilia di espellere gli imprenditori che pagano non si è tradotta in un'effettiva crescita delle denunce. La Calabria non c'è dubbio che rappresenta il punto più arretrato della reazione del mondo imprenditoriale in Italia. In Italia dico le regioni del Mezzogiorno, cioè noi abbiamo un'esperienza straordinaria di associazionismo antiracket alla Lamezia Terme. Nel passato abbiamo avuto esperienze molto importanti nella zona della Piana, purtroppo vi è una situazione di sostanziale acquiescenza da parte del mondo imprenditoriale. Quegli stimoli, quegli entusiasmi, quelle innovazioni che ci sono state in Sicilia e a Napoli, qui si sono conosciuti assai poco. Quindi vuol dire, quando lei parla di sostanziale acquiescenza, vuol dire che la maggior parte degli imprenditori... La stragrande maggioranza di imprenditori paga il pizzo? Certo, e subisce i condizionamenti mafiosi, o perlomeno o convive con i condizionamenti mafiosi, perché non sempre chi subisce il condizionamento mafioso lo subisce in una prospettiva di vittima, di pura vittima. A volte trova una convenienza che gli deriva da essere legittimato sul mercato e da avere vantaggi sul mercato. Questo è valido soprattutto per quali tipi di imprenditoria, considerando anche le particolari caratteristiche della Calabria, che è una realtà da un punto di vista imprenditoriale anche molto, molto difficile e non particolarmente sviluppata? Ma lei considera il peso che storicamente hanno avuto i lavori pubblici in questa regione nella produzione del reddito complessivo e capisce che il mondo dell'edilizia è il mondo trainante dell'economia, e il mondo dell'edilizia è sostanzialmente in un regime monopolistico, nel senso che è controllato, condizionato quasi interamente alle organizzazioni mafiose. Quindi lei parla dell'edilizia, ma invece per quanto riguarda invece gli imprenditori più piccoli, imprenditori anche al dettaglio. Consideri questa realtà dei centri commerciali, di questo a volte eccessivo proliferare di centri commerciali, non c'è dubbio che alcuni settori, quelli più dinamici dal punto di vista del turnover proprietario o dei nuovi investimenti, sono quelli più a rischio. Fra questi sicuramente i centri commerciali, come del resto alcune indagini recenti hanno dimostrato. Questo sicuramente, ma questo attiene strettamente al riciclaggio. Soffermandoci invece proprio sulla imposizione del racket, quindi sulla percezione diretta che anche i piccoli imprenditori ne hanno. È un fenomeno di massa, certo che è un fenomeno di massa. Ecco, ma si può dire che valgono le stesse, diciamo, regole, se si può usare questo termine, che abbiamo imparato a conoscere per le altre regioni a forte presenza della malavita come la Sicilia o la Campania, sì. Cioè il 3% a tappeto? Dipende, il 3% funziona negli appalti pubblici, l'esercizio commerciale non c'è una fiscalità così rigorosa come per gli appalti pubblici, come dire, si va a naso, si capisce il reddito, ma sicuramente funziona il principio della proporzionalità, l'imprenditore paga proporzionalmente a ciò che produce, sicuramente funziona il principio che devono pagare tutti, perché pagando tutti io controllo il territorio, io un 'ndranghetista posso esercitare la mia sovranità, e ahimè il fatto che sono pochissime le eccezioni a questo sistema di regole da parte degli commercianti stessi. Ecco, veniamo proprio alle eccezioni. Lei dice pochissime, ma quindi qualcuna ce n'è stata. Che tipo di storie vi hanno raccontato? Che tipo di minacce? La storia più interessante è la storia di Lamezia Terme. Perché? Perché è la storia di un gruppo di imprenditori che si trovavano letteralmente assediati e pressati da diverse famiglie, da diverse zine calabresi, e hanno avuto la capacità loro stessi di organizzarsi in un'associazione, portando in tribunale il capo mafia e gli altri estortori e determinandone una condanna. E la cosa interessante è che è stato fatto in un contesto collettivo. Che tipo di imprenditori erano? Medi imprenditori, artigiani di medio livello, con 5, 10, 15 dipendenti, 100 dipendenti. Quindi realtà medio-piccole. Ecco, esatto. E che tipo di imposizioni avevano avuto? Che tipo di pressioni avevano avuto? Il pagamento mensile del pizzo, dell'importo, chi 300, chi 500, chi 1000 euro al mese, la pressione poi che si manifestava attraverso il prendere degli oggetti, del materiale nell'azienda senza pagarlo, passo dopo, ma si sapeva che quel passo dopo era il costo del pizzo, capisce? Per delle realtà virtuose, le cronache hanno registrato però anche casi in cui di imprenditori che si sono casomai accreditati come vittime del racket o come vittime delle pressioni della malavita organizzata, dicendo di aver avuto negozi bruciati oppure intimidazioni di vario tipo perché non avevano accettato l'imposizione del pizzo, e invece poi dopo poche settimane, l'ultimo episodio è successo a Gela, sono stati a loro volta arrestati perché quelle erano incendi che si procuravano loro stessi per casomai accedere ai fondi previsti per le vittime del racket. Quanto spesso capita e quanto è difficile per voi discernere? Per fortuna non capita frequentemente, per fortuna. Per fortuna la legge, come giustamente ha sottolineato lei, ha nel suo seno gli anticorpi per contrastare questi tentativi. Poiché noi operiamo a strettissimo contatto con le forze dell'ordine, se c'è qualcosa, la puzza di bruciato la sentiamo subito, di solito. Ad esempio, il caso di Gela è il caso di un collega che non faceva più parte dell'associazione da 2-3 anni. Ed era stato allontanato in virtù di questo? Da 2-3 anni, no, che vuole che le dica, non faceva più parte dell'associazione da 2-3 anni, punto. Era un collega che avevamo querelato alcuni mesi fa. Devo dire che la legge in generale sa salvaguardare il principio, anche perché si avvale le forze dell'ordine. Noi i nostri elenchi, prima di farli diventare soci, li portiamo a tutte e tre le forze di polizia. Rispetto alla vostra organizzazione, la quota dei calabresi nella vostra organizzazione a quanto più o meno corrisponde? Signora, lei è ottimista se mi chiede qual è la quota. Lei è troppo ottimista se mi chiede qual è la quota. Perché si contano sulle... Lo 0, qualcosa, ma non è cosa di parlare di quote, ecco, di percentuale. Cioè rappresentano poche decine e forse non arrivano ad una decina? No, rappresentano qualche centinaio, ma sono alcune centinaia, li rappresentiamo in Calabria, ma lei capisce che alcune centinaia sono un numero assolutamente... Bisogna sapere, mentre lei parliamo, c'è gente che paga, cioè parliamo di un fenomeno che non si rende conto quanto è diffuso. Quanto è radicato in realtà, casomai ancora più chiuse come quella della Calabria e ancora più difficili rispetto anche alla stessa Sicilia o alla stessa Campania, ma anche lì in Sicilia tutta la svolta della Confindustria, ma le denunce in Sicilia non sono aumentate. Non sono aumentate, non so se sono addirittura pure calate nell'ultimo anno. Cioè tutta quella svolta è stata una cosa importantissima, una cosa significativa, meno male che c'è stata, ma non è che abbiamo pensato possiamo minimamente illuderci che abbiamo risolto il problema. Cioè abbiamo avuto qualche denuncia in più. qualche denuncia in più in una realtà come Palermo, poco più di qualche decina. Se è vero questo per la Sicilia, per la Calabria è ancora peggio. Per la Calabria è ancora peggio. Il patto di legalità sancito da Confindustria è stato sottoscritto dalla Confindustria nazionale, per cui è esteso a tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la Calabria, ci faccia un quadro concreto di com'è la situazione, cioè le pochissime denunce che avete ricevuto, da dove provengono? Dai centri principali? Provengono da commercianti e artigiani, punto. Dal mondo dell'edilizia credo che fosse sulle dita di una mano nell'intera Calabria, dal mondo medio industriale anche lì le dita di una mano bastano, punto. Questo è lo scenario. E qual è la sua idea? Per quale ragione neanche questa svolta della Confindustria ha portato ad un cambiamento? È un percorso difficile che deve fare da un lato leva sul coraggio e quindi sulla convinzione, bisogna convincere uno a uno gli imprenditori. Dall'altro si tratta di spezzare legami di interesse. I commercianti, gli imprenditori non è che denunciano non perché hanno paura, ma non denunciano per ragione di interesse, pur non essendo colluse, però sanno che dentro quel sistema c'è la loro quota di mercato, la loro collocazione. Uscire da quella quota di mercato ovviamente ha un costo e non tutte pensano di assumersi questo costo, per cui preferiscono restare lì dove sono, nelle relazioni che ci sono da generazioni. Questo non chiama in causa anche la necessità che un imprenditore si senta davvero però tutelato in questo tipo di percorso? Questo oggi le posso dire con assoluta certezza che questa è l'unica cosa certa che c'è. Un imprenditore oggi che decidesse di esporsi può tranquillamente sentirsi tutelato. 20 anni fa non era così. Quando ho iniziato io 20 anni fa con l'associazione di Capo Orlando, allora era problematica la tutela, ma oggi un imprenditore che decide di esporsi, le posso dire con garanzia che sia in Calabria, che in Sicilia, in Campania, la tutela non gli mancherà, né sotto il profilo dell'istituzione né sotto il profilo delle associazioni. Quindi questa è l'unica cosa che abbiamo, ci mancano le altre. Tano Grasso è stato uno degli ospiti del ciclo di incontri sulla legalità organizzati da Avviso Pubblico e il gruppo 24 Ore a Milano. Storielle. Storiacce. I lavori per il metano, come la ristrutturazione della scuola o la costruzione del campo sportivo, l'hanno chiamata La Rosa. L'ultima inchiesta dell'antimafia di Reggio Calabria, in fatto di Pizzo, ha ricostruito un'unica rete e uno stesso metodo in una galassia di lavori pubblici che andava avanti da quasi 15 anni. In Calabria non si può neanche quantificare in una percentuale il numero di chi si ribella al racket. È stata la sconsolata missione nella prima parte di Tano Grasso, presidente della Federazione Antiracket Italiana. Ma anche in questa terra difficile un primo seme di rinascita è stato già gettato a Lamezia Terme, e allora ripartiamo da qui. All'Ocri noi ci stiamo parlando, ci abbiamo provato, abbiamo alcuni contatti, sono rapporti di fiducia delicati, sottili, contenuti insieme da fili sottilissimi che si costruiscono nel tempo, e non è che lei troverà in giro un imprenditore che gli dice guarda io spago il pizzo, non lo trova neanche sotto tortura. Bisogna costruire meccanismi tali, come è avvenuto alla Lamezia Terme, che l'imprenditore stesso si sente in grado di dire questa cosa. E perché alla Lamezia Terme ci siete riusciti, oppure questo meccanismo è avvenuto e in altre realtà ancora no? È perché si è creata queste cose, molto spesso sono il frutto, giusta la sua domanda, sono il frutto di congiunture casuali, di incontri casuali, quell'imprenditore giusto, quel prete giusto, quel sindaco giusto, quel dirigente di commissariato giusto, quel capitano dei carabinieri giusto, quel magistrato giusto. Una coincidenza casuale fa un'esperienza di questo tipo. Forse anche perché è una realtà più grande, più aperta, semplice. È una realtà difficilissima. Però casomai al confronto dell'entroterra della Locride forse... Alfa non lo so quanto, è una realtà difficilissima. Tano Grasso, le volevo chiedere qualche dettaglio in più su questa esperienza positiva di Lamezia, e proprio per questo, gli imprenditori che si sono costituiti in associazione, come hanno condiviso la loro esperienza di vittime di richiesta di racket? Per quanto tempo era andata avanti? Le racconto solo un fatto che è il più significativo secondo me. Quando si va in un'aula di tribunale, quello è uno dei momenti più tristi per un imprenditore, anche perché dentro quell'aula di solito è piena di familiari degli imputati, tutti che ti guardano a farti sentire il respiro. Quando uno dei nostri imprenditori ha testimoniato là dentro, la cosa bella è che c'erano le nostre famiglie, c'erano i nostri associati con le mogli, con i figli, cioè ci siamo rimpadroniti anche nello stesso spazio fisico del tribunale, dando un grande sostegno e una grande forza a quello che andava a testimoniare. Tutto questo è stato risultato di mesi, io ho partecipato per tanti mesi, in cui sai come si parlava, eravamo in poche, cioè 10, 15, 20, tutte fidatissime, eppure si parlava per accenne, qualcuno dava una battutina, io dovevo decodificarla, perché di queste cose non se ne parla chiaramente mai, solo dopo che si passa il guado diventa un'altra cosa, ma prima di passare il guado la conversazione per ammiccamente, per accenne, per omissione. Questo anche con una ristretta cerchia di fidatissimi. Certo, è così. Ma io che sto con il mio commerciante, con il mio collega di accanto di porta, quello non mi dice mai con cui mi prendo il caffè, con cui andiamo a cena la sera, sia io che lui sappiamo che paghiamo la stessa persona, non ce lo diciamo mai, capisce? A mettere insieme queste esperienze diverse siete stati voi, cioè ciascuno singolarmente si è rivolto a voi? No, siamo stati noi come FAI, come Federazione Antiracket, che poi li abbiamo messi insieme, e una volta che li abbiamo messi insieme loro si sono organizzate. Avevano tutti esperienze analoghe, cioè per quasi tutte sì, avevano esperienze analoghe perché erano quasi tutte nella stessa zona, perché veda qual è il problema: in un posto come Lamezia, se c'è uno che pagano tutte, o diciamo il 90% in quella strada, perché il mafioso su quella via non può andare da 1 su 10, ma da 9 su 10. Per quanto tempo era andata avanti finché ciascuno di loro non si è rivolto da voi? Per almeno un paio d'anni. Per almeno un paio d'anni avevano avuto richieste di pagamento. Trattative, discussioni, acconte, vediamo, tirare la corda, poi la corda si spezza per fortuna e si denuncia. Quindi c'erano stati dei primi pagamenti? Qualcuno sì, qualcun altro no, merce che si prendeva, perché la merce si giustifica, dice in fondo io non sto pagando, quello si prende un sacco di cemento, poi me lo viene a pagare. È una forma di imposizione, certo, di racket, che è meno violenta, certo, dell'andare a chiedere i soldi. Oppure quello va lì, si prende un vestito di 500 euro, dice poi passo e te lo pago. Capisce? Poi ovviamente sia io che lui sappiamo che lui non passerà mai a pagarmelo, però io mi illudo che quello se l'è preso così, faccio finta di illudermi. E questa è stata per voi la prima importante esperienza che avete avuto in Calabria? No, ne avevamo avuto un'altra alcuni anni fa, i primi anni 90, nel 92-93, a Cittanova, dove lì un gruppo di 11 commercianti, di 11 imprenditori, anche lì medio-piccoli, sono andati in tribunale a denunciare, a fare condannare i 'ndranghetisti del clan Raso Facchinere. Se lei parla dei primi anni 90 e poi adesso, cioè ci sono passati più di 10 anni, quasi 20. C'è stato qualche esempio di rivolta solitaria, tipo Gaetano Saffiotti, che oggi è il nostro vice coordinatore regionale e che è un esempio di straordinario coraggio e di grande intelligenza, ma episodi organizzati in questo modo ce ne sono state poche. Adesso è nata per fortuna un'associazione ad Amantea, da qualche mese l'abbiamo presentata col sottosegretario Mantovano, però purtroppo in Calabria c'è da fare tantissimo. Ed è questa anche la regione su cui in questo momento state puntando di più? Possiamo dire questo? Sì, lei deve sapere che sta parlando con chi da oggi è il nuovo assessore alla cultura del comune della Lamezia Terme. ho accettato questo incarico di spendere ancora più su questo territorio. Ecco, e come si combinano le due cose, l'assessorato alla cultura con l'attività anti-racket? Con l'attività anti-racket mettiamo i mafiosi in carcere, i zanghettisti in carcere. Con l'attività alla cultura togliamo alla 'ndrangheta l'ossigeno. Bisogna investire di più e meglio per togliere l'ossigeno. Lei come pensa questa attività culturale a Lamezia? Lo so che è troppo presto per chiederglielo, però secondo lei in che modo l'attività culturale in una realtà come Lamezia può essere propedeutica ad una svolta di tipo legalitario? Semplicissimo, semplice, basta lavorare sulla formazione dei ragazzi, basta promuovere la creatività tra i giovani, punto. Così togliamo l'ossigeno. Togliere i giovani dalle tentazioni di cadere nella logica malavitosa. No, valorizzare la loro creatività, dare la prospettiva di un futuro di valore. Poi si può pure essere disoccupate, ma se tu hai un futuro di valori già sei un'altra cosa. E di Calabria continueremo a parlare oggi stesso, anzi tra poco alle 15.30 dalla Salone del Libro di Torino per una puntata speciale, un incontro aperto al pubblico dal titolo Ossimori di Calabria, la mala pianta dell'Andrangheta. Un incontro intervista con il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri. Vi aspettiamo allora allo stand di Radio 24 all'interno del Salone del Libro di Torino, padiglione 2, vicino alla Sala Blu, stand H100. Vi aspetto alle 15.30 con una puntata speciale aperta a tutti voi. Qui in onda invece ci ritroviamo sabato prossimo come sempre alle 13.30. Ciao!